Il problema dell'educazione islamica dei figli di genitori musulmani che vivono in Italia è di primaria importanza e richiede non solo uno studio a livello teorico, ma anche e soprattutto iniziative concrete dirette a realizzare strumenti idonei con cui rispondere alla volontà di quei genitori musulmani che sentono il dovere di dare ai loro figli una educazione e una istruzione islamica che vada oltre a quelle che sono le informazioni sull'Islam attraverso la parola e l'esempio che dà la famiglia. È stato rilevato infatti che anche quando le famiglie offrono ai figli buoni esempi, unitamente ai primi rudimenti di dottrina dell'Islam, la maggior parte dei bambini sta crescendo con una identità islamica molto fragile e non pochi di essi perdono il contatto con la realtà religiosa dell'Islam a causa dell'incidenza dei condizionamenti ambientali nella formazione di una personalità. Purtroppo, dall'esame dei comportamenti tenuti dai figli di genitori musulmani, risulta che una certa percentuale non sfugge alle influenze dell'ambiente e ciò accade soprattutto quando anche gli stessi genitori subiscono un difficilmente resistibile degrado della loro identità islamica a cui pure fortemente tengono. Non è perciò raro che anche quel genitore musulmano che non è un modello esemplare di condotta islamica, di fronte ai comportamenti devianti dei figli, rendendosi conto di avere trascurato o di stare trascurando la loro educazione, venga spesso assalito da rimorsi e sentimenti di colpa che scatenano in lui un'ansia di recupero. Ansia di recupero che lo spinge alla ricerca di un rimedio, bacchetta magica, con cui tacitare la coscienza messa in crisi dalla realtà. È quella realtà rappresentata bene dal proverbio «chiudere la scuderia quando i cavalli sono scappati». Molto di frequente la ricerca della via d'uscita per rimediare alla colpevole negligenza si risolve spesso, a causa dell'ignoranza, in atteggiamenti impositivi che sortiscono un risultato diametralmente opposto a quello desiderato. Di norma, infatti, chi ha trascurato per anni i figli, quanto più gravemente ha trascurato il suo dovere, tanto più fortemente è smanioso di vedere il miracolo, che raramente avviene, del recupero dei figli all'Islam. Per questo motivo, i genitori musulmani, consapevoli dell'obbligo imposto loro da Allah, hanno il sacrosanto dovere di fare sacrifici per educare i figli ai valori morali dell'Islam e di sforzarsi di provvedere alla loro istruzione nella dottrina e nelle pratiche fondamentali dell'Islam al fine di non trovarsi nelle condizioni di dover sperare nel miracolo per vedere i loro figli tornare alla linea di condotta islamica. Il dovere imposto da Allah subhanahu wa ta'ala ai genitori per salvare loro stessi e i loro figli dal fuoco dell'inferno richiede da parte loro un impegno di attenzione tanto maggiore quanto maggiore è la pressione delle strutture educative e culturali dell'ambiente che sono finalizzate alla assimilazione dei diversi nonostante lo sbandieramento del concetto di integrazione. I genitori devono sapere che trascurando il dovere di far crescere i figli nei sentimenti e nelle opere dell'Islam si mettono nelle condizioni di ritrovarsi inevitabilmente in casa dei figli che non hanno più nulla di islamico oppure ben poco.